空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えていく遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲君が吐いた息を吸って 一日が終わり人々が家路へと急ぐ頃俺の一日は始まる。昔の音のようだね。川もの上を雲が流れる。営業時間は夜12時から朝7時頃まで。人は深夜食堂って言ってるよ。メニューはこれだけ。あとは勝手に注文してくれりゃできるもんなら作るよってのが俺の営業方針さ。客が来るかって？それが結構来るんだよ。 Sandman, Cacciatori di sogni, di Neil Gaiman e Yoshitaka Amano. Capitolo 3. Nella parte sud-occidentale dell'isola, nella sua casa di Kyoto, il maestro di Yin Yang, Lon Min-yoji, accese una lampada su un tavolino che aveva coperto con un telo di seta dipinta e su cui aveva posto uno scrigno di lacca e una chiave di legno nera. Cinque piattini di porcellana erano stati sistemati secondo i punti cardinali della bussola. Tre contenevano polveri diverse. Un quarto, una stilla di un liquido, mentre il quinto era un completamente vuoto. Lon Miyoji era un uomo ricco, ma alto funzionario nei ranghi della divinazione, ed erano in molti a cercare il suo consiglio e la sua protezione. I governatori di molte province gli mostravano gratitudine, convinti che la sua influenza e la sua capacità divinatoria fossero all'origine della loro posizione e dei loro patrimoni. Il suo parere era tenuto in gran considerazione dal cancelliere e dai ministri della sinistra e della destra. Eppure, Lon Min-yoji non era un uomo felice. La moglie abitava nell'ala settentrionale del suo palazzo. Governava la casa con giudizio ed efficienza e lo trattava in ogni circostanza con il riguardo che una moglie deve al proprio marito. La sua concubina aveva appena 17 anni ed era molto bella. La pelle candida quanto il più immacolato fiore di susino e le labbra scure quanto i suoi frutti. La moglie e la concubina vivevano insieme sotto lo stesso tetto senza mai litigare. Eppure Lon Min-yoji non era un uomo felice. La sua era da tutti considerata la 17ª più bella dimora di Kyoto. Spiriti e demoni dell'aria, come Oni e Tengu, erano in suo potere e ubbidivano i suoi ordini. Ed era in grado di ricordare ogni singolo particolare delle sue precedenti vite. Da giovane si era recato in Cina per approfondire i suoi studi e ne era tornato prematuramente canuto, ma con una conoscenza nella lettura dei presagi e dei portenti che non aveva pari. Era rispettato dai suoi superiori e temuto dai suoi sottoposti. Eppure, nonostante tutto, Lon Min-yoji non era un uomo felice. E ciò accadeva perché aveva paura. Da quando ne aveva memoria, da quando non era che un bambinetto, aveva sempre vissuto nel terrore. E ogni nozione che apprendeva, ogni piccolo frammento di potere che acquisiva, era custodito gelosamente nella speranza di dissipare quella paura. Ma la paura restava. Lo seguiva alle spalle e albergava nel suo cuore. Era là quando dormiva e gli dava il benvenuto al risveglio. Era là quando si abbandonava ai piaceri dell'amore, quando beveva o faceva le sue abluzioni. Non era paura della morte, anzi, in cuor suo credeva che la morte sarebbe stata un modo per sfuggirle. E vi erano giorni in cui si domandava se uccidere tutti gli uomini, le donne e i bambini della terra per mezzo dei suoi poteri lo avrebbero liberato da questa paura. Immaginava però che quel sentimento l'avrebbe perseguitato anche se fosse stato solo a mondo. Era la paura a guidarlo, a sospingerlo verso le tenebre. Il maestro di Yin Yang si fece istruire dai profanatori di tombe e al crepuscolo incontrava creature deformi per danzare con loro e prendere parte ai loro banchetti. Al limitare della città, dove vivevano ladri, briganti e la feccia dell'umanità, il maestro di Yin Yang possedeva una stamberga diroccata nella quale abitavano tre donne, una giovane, una vecchia e una che non era né giovane né vecchia. Le tre vendevano erbe e rimedi alle donne che si trovavano in sfortunate circostanze. Si narrava che certi viaggiatori incauti che si erano fermati in quella casa poi fossero spariti nel nulla. In ogni caso, nessuno sapeva del legame tra l'Omni Gnoji e le tre donne e delle sue visite alla loro capanna nelle notti senza luna. L'Omni Gnoji non era un uomo di sentimenti e pensieri malvagi, aveva solo paura. E la paura gli rubava la gioia che poteva procurare un istante di felicità o di soddisfazione, prosciugando la sua vita di ogni piacere. Una notte, molte settimane prima che accadessero gli eventi precedentemente narrati, l'Omni Gnoji aveva rivelato alle tre donne i dubbi che più lo tormentavano. Il vento soffiava attraverso i vetri rotti e fischiava tra le grondaie marcescenti. «Dove posso trovare pace?» domandò alla più anziana. «C'è la pace eterna della tomba», gli rispose, «e quella più effimera che si prova contemplando un bel tramonto». La donna era nuda, con i seni che le pendevano come sacchi vuoti. Sul viso aveva dipinto l'effigie di un demone. L'Omni Gnoji aggrottò la fronte. Come un gesto di impazienza batté il ventaglio contro il palmo della mano e chiese alla più giovane, «Perché non trovo pace?» «Perché sei vivo», gli rispose tra le labbra livide. Delle tre era quella che più lo terrorizzava poiché aveva la sensazione che non fosse viva. Era bella, ma non di una bellezza glaciale. E ogni volta che lo sfiorava con le sue dita gelide, rabbrividiva. «Dove posso trovare pace?» chiese infine a quella che non era né giovane né vecchia. La donna non era nuda, ma la sua veste leggermente scostata lasciava intravedere due file di mammelle simili a quelle di una scrofa o di un ratto, con numerosi capezzoli duri e neri come grumi di carbone. Inalò una boccata d'aria a denti stretti, la trattenne per un tempo lunghissimo e infine espirò e disse: «Nella provincia di Mino, a molte giornate di viaggio da qui, verso la parte nord-orientale dell'isola, sul versante di una montagna si trova un piccolo tempio. È un tempio di poco conto, pertanto se ne prende cura un solo monaco. Quell'uomo non teme nulla e possiede la pace che tu desideri. Io posso ordire una trama in modo che alla sua morte tu sia destinato a ottenere la sua forza e a non temere più nulla. Ma una volta che avrò intrecciato i fili del destino, avrai tempo solo fino al prossimo plenilunio per procurargli la morte. E non dovrà subire una morte violenta o dolorosa, altrimenti l'incantesimo fallirà». L'Omni Gnoji grugnì di soddisfazione, le offrì qualche boccone prelibato dal palmo della mano, poi accarezzandole la testa le disse che la sua proposta gli andava a genio. Le tre donne si ritirarono in un'altra parte della dimora diroccata. Quando fecero ritorno era quasi l'alba e il cielo cominciava a rischiarare. Consegnarono all'Omni Gnoji un candido telo di seta sul quale erano dipinte le sue sembianze, la luna e l'effigie del giovane monaco. L'uomo annuì soddisfatto. Avrebbe voluto ringraziarle, ma sapeva che non era lecito esprimere gratitudine a siffatte creature. Perciò depose la ricompensa sul pavimento e si affrettò a fare ritorno alla sua dimora prima che fosse giorno. Vi sono molti modi di uccidere qualcuno a distanza, ma la maggior parte di essi, per quanto non implichi violenza, procura di certo dolore. Dopo aver consultato la sua pergamena, il maestro di Yin Yang inviò i suoi demoni sulla montagna dove viveva il monaco affinché gli procurassero oggetti che fossero stati toccati dal giovane. È lì che la volpe li aveva sentiti complottare. L'Omni Gnoji sedeva ora dinanzi al tavolino con la lampada accesa, lo scrigno di lacca e la chiave. Da ciascuno dei piattini di porcellana prese un pizzico di polvere che poi lasciò cadere sulla fiamma della lampada. Un pizzico di ognuno dei cinque elementi. raccolse infine dal quinto piattino l'ultima cosa che i demoni avevano rubato al monaco. Il piattino sembrava vuoto, ma invece conteneva un frammento dell'ombra dell'uomo. La fiamma, così alimentata, crebbe a dismisura, ma quando l'Omniongi vi lasciò cadere l'ultimo briciolo del nulla, che era l'ombra del monaco, arse con tale potenza da inondare di luce tutto intorno. Infine si spense, lasciando la stanza immersa nelle tenebre. Quando l'indovino rianimò la fiamma della lampada, notò con piacere che sul fazzoletto di seta era comparsa una macchia sinistra, come se una traccia di morte si fosse insinuata sul volto del monaco. L'uomo la contemplò con soddisfazione, poi se ne andò a letto, riposò beatamente senza più alcuna paura. Per quella notte poteva dirsi pienamente felice. La stessa notte, il monaco sognò di ritrovarsi nella casa del padre prima che lo perdesse, insieme a tutti i suoi averi. Suo padre era caduto in disgrazia perché i suoi nemici erano molto potenti. Nel sogno, il padre lo salutava con un piccolo inchino. Il monaco era perfettamente consapevole, sempre all'interno del sogno, che suo padre si era tolto la vita mentre lui era ancora vivo. Allora tentava di comunicarglielo, ma l'anziano genitore, senza pronunciare una sola parola, gli faceva capire che non avrebbe potuto fermarsi ad ascoltarlo. Poi, dalle pieghe della sua veste, tirava fuori un piccolo scrigno di lacca e lo porgeva al figlio perché lo prendesse. Non appena il giovane prendeva la piccola scatola, il genitore scompariva, ma lui non vi dava alcun peso poiché tutti i suoi pensieri erano rivolti all'oggetto di lacca. Per quanto gli paresse di intravedere il guizzo della coda di una volpe attraverso la porta aperta. Sapeva che nello scrigno si trovava qualcosa di importante, qualcosa che doveva assolutamente vedere. Ma lo scrigno resisteva a ogni suo tentativo di apertura e più tirava e forzava, più cresceva la sua delusione. Al risveglio si sentì pervaso da un sentimento di impotenza e sconforto e si chiese se quel sogno fosse un presagio o un avvertimento. Se era un sogno premonitore di cattiva sorte, possa un Baku portarselo via, disse. Poi alzò e uscì a prendere l'acqua, iniziando così la sua giornata. La seconda notte, il monaco sognò che veniva a trovarlo suo nonno, sebbene questi fosse morto soffocato da un boccone di mochi, un dolcetto di riso, quando lui era ancora in fasce. Si trovavano su un'isola poco più grande di uno scoglio. Il nonno fissava il mare con occhi ciechi mentre gli uccelli marini gridavano e stridevano sovrastando il sibilo della brezza e lo sciabordio delle onde. Il vecchio apriva il palmo, avvizzito, e al suo interno si trovava una piccola chiave nera. Muovendosi a scatti, come un burattino, gliela porgeva. Il giovane prendeva la chiave mentre un gabbiano urlava tre tristi note discendenti. Il monaco avrebbe voluto chiedere a suo nonno cosa mai potesse significare, ma il vecchio se n'era già andato. Mentre teneva la chiave stretta in mano, il monaco si guardava intorno per capire cosa potesse aprire, ma l'isola era brulla e deserta. Allora cercava di perlustrarla con attenzione, ma non trovava nulla. Poi trovava la sensazione di essere osservato. Ma guardandosi intorno non vedeva nulla eccetto dei gabbiani in lontananza e la sagoma di un'esile figura su una scogliera, forse una volpe. Si svegliò con la mano stretta intorno a una chiave inesistente, con la sensazione di avere ancora addosso gli occhi di quella volpe. Il sogno era talmente vivido che più tardi, durante il giorno, mentre un vento gelido staccava le prime foglie vermiglie da un acero e la portava nel piccolo orto del tempio, dove crescevano rigogliose le zucche bianche e rosse, il monaco si sorprese a cercare la chiave, e gli ci volle un po' per prendere coscienza del fatto che nel mondo reale non l'aveva mai vista né toccata. Quella notte il monaco si aspettava un altro sogno oscuro. Nel momento in cui chiuse gli occhi sentì un rumore alla sua porta, ma poi prese sonno. La prima parte della notte fu libera da ogni sogno. Nella seconda parte, invece, sognò di trovarsi sopra un ponte e guardare delle carpe nuotare placidamente in uno stagno. Una delle carpe era d'argento puro e l'altra d'oro. Osservarle lo rendeva molto felice. Si svegliò, certo che il sogno fosse un buon auspicio, e si sentì sollevato dall'idea che i giorni di cattivi presagi fossero ormai passati. Sorrise felice mentre si alzava dal suo giaciglio. Il monaco conservò il suo buon umore finché non inciampò nel corpicino della volpe. Aveva gli occhi chiusi e giaceva distesa dinanzi all'ingresso del tempio. Capitolo 4. Sulle prime al monaco sembrò che la volpe fosse morta. Poi, chinandosi su di lei, si rese conto che respirava ancora, ma in maniera così lieve che a tratti pareva non respirasse affatto. Tuttavia, era ancora viva. Il monaco la portò nel piccolo tempio e la depose accanto al braciere, in modo che si scaldasse per bene. Poi, rivolse silenziosamente una preghiera a Buddha, chiedendo che alla volpe fosse salvata la vita. «È una creatura selvatica», pensò il monaco. «Non ha un cuore d'oro e non vorrei vederla morire». Accarezzò la sua pelliccia, morbida come la seta, e riuscì a sentire il debole battito del suo cuore. «Quando ero bambino», disse, rivolto alla volpe priva di sensi, «prima che a mio padre accadesse quella tremenda disgrazia, di tanto in tanto scappavo dalla mia balia e dai miei precettori per andare al mercato, dove si vendevano animali vivi. In quelle gabbie di bambù ho visto animali di tutti i tipi, volpi, cani, orsi, piccoli babbuini, scimmie dalla faccia rosa, lepri e coccodrilli, serpenti e maiali, e poi cervi, aironi, gru e cuccioli d'orso. Stare a guardarli mi rendeva molto felice, amavo gli animali, ma al contempo mi intristivo, vederli imprigionati mi feriva profondamente. Un giorno, dopo la chiusura del mercato, trovai una gabbia rotta e al suo interno c'era un cucciolo di scimmia, troppo scheletrico per essere venduto e forse anche morto. O almeno qualcuno doveva averlo ritenuto tale. Ma io capii subito che lo scimmiottino era ancora vivo e così me lo nascosi in petto e mi avviai verso casa di mio padre. Lo tenni nella mia stanza, nutrendolo con gli avanzi dei miei pasti. Crebbe presto il mio scimmiottino e divenne in poco tempo grande quanto me. Mi ero affezionato, poteva stare per ore ad aspettarmi sotto il grande albero di cachi che avevamo davanti a casa. Mio padre l'aveva accolto bene e tutto andò per il meglio fino al giorno in cui un tale venne a farci visita. Lo scimmiottino sembrava impazzito. Impediva al tale di avvicinarsi a mio padre. Iniziò ad agitarsi e a sbarrargli la strada mostrando i denti e gonfiando il torace, insomma comportandosi come se quel tale fosse un rivale giunto da un'altra tribù di scimmie. L'uomo, vedendosi aggredito, fece un rapido cenno e uno dei suoi attendenti, che strasse immediatamente l'arco e scoccò una freccia dritta nel petto del mio scimmiottino, sebbene l'avessi implorato di non farlo. Lo portai fuori dalla casa e ci guardammo negli occhi un'ultima volta prima che morisse. Più tardi, dopo che mio padre cadde in disgrazia, scoprimmo che tutti i suoi guai erano nati dalle macchinazioni di quell'individuo. A volte penso che davvero quella scimmia in realtà fosse uno spirito mandato da Amida Buddha per proteggerci. E l'avrebbe fatto se solo avessimo avuto occhi per vedere e orecchie per sentire. Questo accadde molti anni fa, piccola volpe, in una vita per me passata, ma c'è ancora qualcosa da imparare da quella lezione. E forse, con tutte le tue astuzie da volpe, anche tu avevi intenzione di proteggermi. Il monaco pregò ancora Amida Buddha e Kishibonjin, che prima di incontrare il Buddha era stato un demone e ora protegge donne e bambini. Continuò invocando Dainichi Nyoirai e infine pronunciò un'ultima breve preghiera a Binzuru Arada, il primo tra i discepoli, a cui lo stesso Buddha aveva vietato di raggiungere il Nirvana. Innalzò preghiere a tutte queste entità, implorando il loro aiuto e l'intercessione per la piccola volpe. Una volta terminata la supplica, la volpe giaceva ancora a terra, accasciata e immobile sulla stuoia, come se fosse morta. C'era un villaggio ai piedi della montagna e a circa mezzogiornata di cammino dal tempio. Forse, pensò il monaco, al villaggio c'è un dottore o una vecchia saggia che potrà essere d'aiuto alla volpe. Senza pensarci due volte prese in braccio il corpicino esanime e iniziò a discendere la montagna lungo il sentiero che lo avrebbe condotto al villaggio. Faceva freddo. Il monaco tremava nei suoi indumenti leggeri. Gli ultimi mosconi sopravvissuti alla stagione, e di certo i più fastidiosi, gli ronzavano attorno, seguendolo lungo il cammino e facendo di tutto per dargli noia. A metà della discesa, il ruscello di montagna era diventato un piccolo fiume e su di esso si ergeva un ponte. Quando vi giunse, il monaco vide un vecchio venirgli incontro lungo il sentiero, Aveva una lunga barba bianca e delle sopracciglia molto folte e si appoggiava a un lungo bastone intagliato. Quell'uomo emanava saggezza e serenità, ma il monaco ebbe la sensazione che potesse celare pericolose sorprese. Il vecchio attese presso il ponte che il monaco si avvicinasse. «Gli aceri sono davvero bellissimi», disse. «Tutti quei bei colori appresso spariranno. A volte penso che l'autunno possa essere meraviglioso, almeno quanto la primavera». Il monaco annuì. «E dimmi, cos'è che porti con te?» chiese il vecchio. «Parrebbe essere un cane morto. Non è forse una cosa troppo impura perché un monaco lo trasporti?» «È una volpe», disse il monaco, «e non è ancora morta». «E stai andando a ucciderla?» chiese il vecchio in tono burbero. «Sto andando alla ricerca di una cura per lei», rispose il monaco. Il vecchio apparve di un tratto molto serio. Alzò il suo bastone verso il monaco e con la punta lo colpì due volte, ai lati del volto, tra le spalle. «Questa è per aver abbandonato il tuo tempio», disse il vecchio al primo colpo di bastone, «e questa è per esserti impicciato dello spirito di una volpe». Il monaco scosse la terza. «Forse hai ragione a colpirmi», disse, «perché è proprio come dici, ho abbandonato il mio tempio e sto portando con me una volpe. Tuttavia sento che cercare una cura per lei sia la cosa giusta da fare». «La cosa giusta? La cosa giusta?» Il vecchio colpì il monaco ancora una volta col bastone, stavolta affondando in mezzo al petto. «Perché mai lo fai, uomo stolto e privo di buonsenso? La cosa giusta sarebbe fare ritorno al tuo tempio, con la volpe, e dormire con un lasciapassare per il regno dei sogni sotto il capo, perché è nei sogni che la tua piccola volpe è intrappolata». «Se posso permettermi di chiederlo senza ricevere in cambio altro colpo», disse il monaco esitante, «dove potrei mai trovare un lasciapassare per il regno dei sogni?» Il vecchio rimase a guardarlo. Poi rivolse lo sguardo al suo bastone intagliato e iniziò a sospirare profondamente e a lungo, come se stesse provando a raffreddare una zuppa bollente. Frugò nella sua manica e ne tirò fuori una striscia di carta con una scritta sopra. Poi la mise con forza nella mano del monaco. «Ecco», brontolò il vecchio, «ma tu resti sempre uno sciocco, perché tu o la tua volpe morirete, e non c'è nulla che tu possa fare su questa terra o altrove per impedirlo. Non importa quanto siano puri i tuoi intenti». Il monaco stava per replicare. Voleva chiedere al vecchio perché gli avesse dato quel lasciapassare, se non ne avrebbe potuto trarre alcun beneficio. Ma a un tratto si accorse che era solo sul ponte, e per la verità, in tutta la montagna. «Allora quel vecchio doveva essere Binzuru Arada», pensò il monaco, «dato che spesso viene rappresentato nelle vesti di un uomo con la barba bianca e la sopracciglia folte. E lui farà del bene su questa terra fino a quando il Buddha non gli consentirà di andare avanti nella sua strada». Il monaco si chiedeva come mai Binzuru Arada fosse voluto andare in soccorso a una persona insignificante come lui. Ebbe poi un po' di conforto quando si ricordò che a Binzuru Arada era stata chiusa la via del Nirvana perché aveva violato i suoi voti di castità. Scendendo dalla montagna, il monaco non si era quasi accorto del peso della volpe. Ora invece, mentre risaliva, gli pareva che diventasse più pesante a ogni passo. Una leggera foschia aveva iniziato a scendere, rendendo indefiniti i contorni delle cose. Il monaco mise un piede dinanzi all'altro e continuò a camminare verso il tempio. Si chiedeva se stesse agendo nel modo migliore, cercando di aiutare la volpe. Non ne aveva idea, ma era invece consapevole del fatto che non avrebbe mai potuto abbandonarla. Doveva fare un tentativo. Quando il monaco ebbe raggiunto il tempio, che aveva lasciato all'alba, era ormai pomeriggio inoltrato. Le nebbie autunnali scendevano sulla montagna come tele di ragno o fili di seta grezza e l'incalzare del crepuscolo rendeva il mondo ancora più simile a un sogno. Una volta varcata la soglia, anche il tempio in cui il monaco aveva passato gli ultimi 8 anni pareva irreale, come se d'un tratto fosse diventato un luogo immaginario. Il braciere era ormai freddo, il monaco aggiunse del carbone. Iniziò a cucinarsi del riso e arrossì delle sottili fette di zucca per accompagnarlo. Recitò le sue devozioni della sera, sebbene con minor entusiasmo del solito. Una cosa è pregare, un'altra è pregare entità che non solo potrebbero non ascoltare, ma che potrebbero venire a cercarti per strada e colpirti con un bastone se non stai attento a quello che dici. Alla luce tremolante del braciere, il monaco sperimentò una singolare illusione sensoriale. Una parte della sua ombra era svanita, andata, come se gliel'avessero tagliata via. La volpe continuava a dormire ansimante. Il monaco accarezzò la sua morbida pelliccia. Era una volpe davvero piccola. Poi esaminò la striscia di pergamena che gli aveva dato Binzuru Arada. Non riusciva a capire cosa ci fosse scritto. I caratteri sembravano muoversi e ondeggiare sotto i suoi occhi come un sogno. Il giovane mise la volpe sotto la sua tunica, in modo che il contatto col suo corpo potesse tenerla calda e ancora in vita. Si distese sulla sua stuoia e pose la striscia di pergamena sotto il cuscino. Poi, esausto per via della lunga camminata su e giù dalla montagna, cadde in un sonno profondo. Isai ga sai mina kemuri Isai